Andy investe W Joe. È un grandissimo regalo che ci fai, veramente. No, grazie a voi, sono onorata io tantissimo di tornare di nuovo al Coxo. È il discorso della vincitrice di Miss Mondo, giusto? Esatto, la pace nel mondo. Vorrei la pace nel mondo, però stavolta per davvero. Perché brava, mi sono rotta il cazzo. Coxo. Coxo, che non c'è questa pace, veramente. Sottoscriviamo, intanto dico 333 180 94 94, perché so che siamo pieni di ascoltatori che ci ascoltano da Bologna, dal Veneto, dalle Tre Venezie, dal Friuli Venezia Giulia. Abbiamo ciao. Usato sì, perché ciao. Sai, l'ultima puntata dell'anno, sperano che sia finito, che l'anno prossimo chiude i battenti, invece mi sa di no, mi sa che andiamo avanti anche al 2017, magari ci tornerai anche a trovare più spesso. Certo, volentieri. Va bene, allora, detto tutto, buonasera, arrivederci. Dai, è finito qui, manda la musica. No, è uno scherzone, perché in realtà è una puntata pienissima di sorprese, e come poteva non essere così, essendo tornata Andy Investe W Joe a trovarci. E infatti abbiamo niente po' di meno che uno scoopissimo, che è anche un po' del clandestino. Sì, perché in questi tempi di Natale, dove stiamo qui che smaltiamo i dolci, le magnate, vi dicendo, ci mancava forse la cioccolata, che è più un tema pasquale, se vogliamo, ma noi non ci vogliamo far mancare niente, sperando che questo, abbiamo intercettato un imprenditore. Esatto. Di fama internazionale, se non anche metastorica. Wow. Che sta per aprire una, si spera, domani farà un evento per testare se aprire una filiale qui di una fabbrica molto particolare. Abbiamo deciso di portare a Bologna il nostro business. E infatti sentite come ho il piacere di presentare il super mega galattico ospite unico e assoluto della 165esima puntata del Coxo, niente poco di meno di che Mike J. Wonka. Per l'esattezza, Miguelito Wonka di Giuliani. Ma non era tuo cugino messicano quello? No, quello. Ah, sei sempre tu. Sì, ma è sempre così, sbagliano sempre che a pronunciare il mio nome e cognome. E io che sono... Non mi offendo, non no, mi no, io che sono la gaffara del Coxo, la gaff dovevo farla io per forza, quindi da contratto entro anche nel ruolo. Ti ringrazio, anzi, per avermi corretto in diretta, perché sennò non ci stavo bene. Farò altre gaff poi un pochino più eclatanti, forse più avanti. Quindi, per entrare subito nel tema, io direi, abbiamo svelato l'identità e la sua dente voce del nostro imprenditore, l'identità della misteriosissima co-conduttrice. Partiamo con un brano per entrare nello specifico. Oh yeah. Andiamo con quello che c'ho in CD. Quale? Quello che vuoi. Quello. Vai. Adesso intrattienimi quei 3 secondi, che sai che la tecnologia qui. Stiamo allora per ascoltare. Andy, stiamo per ascoltare. Cosa? Questo. Dope Hat. Un brano di Marilyn Manson, contenuto in Portrait of an American Family, ritratto della famiglia americana, perché io ho studiato e so tradurre. Bravo, bravo. Dall'inglese all'italiano. È nomo del mondo. Sai, Miguelito sa tutto. Brano registrato nel 1994, il cui video contiene spezzoni presi dal film originale Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Ah, ma allora c'entrava con quello Willy del Wonka. Film originale del 71. Children love the show, but they fail to see. Vi ho sgamati. La nonna, invece, chi c'è? Che? Io non voglio morire quest'anno, che sono morti tutti quest'anno, no? No, ma questo semmai era l'anno giusto per... No, semmai era l'anno giusto perché sono morti tutti quelli fighi, se non sbaglio. Io non so figa. È stato non un anno così. Ma tu ti ho buttato già dalla finestra un paio di volte, ti ho fatto di tutto, sei ancora viva, è impossibile. Ma chi sei tu? Allora, ma come, signora? Non te lo ricordi? Mi presento ufficialmente. Chi è? Sono Miguelito Wonka De Giuliano. Ah. Ok, sono venuto a Bologna perché abbiamo deciso di aprire solo per domani una filiale della nostra fabbrica di cioccolato. Sì, sì. Okay? Ci sono. In questa fabbrica, scusate, ogni tanto mi si incastra la lingua, avendo mangiato molti dolci, cioè la cioccolata al latte o all'appa, mi si incastra la lingua, tipo Rezzonico. Argentina, giustamente, sì. Brava. Argentini. Bravissimo. Aspettate, sono arrivati dei WhatsApp. Accidenti. Dice: "Ciao Feffa, sono la Mati. Chiudiamo le frontiere", invece dice Alex. E invece un tale Crippen dice: "Il Veneto lo conquisteremo". Cioè, così, mi sembrano molto a tema, devo dire. Perché avete aperto una filiale anche in Veneto? No, per ora no. No. Però una volta che la fabbrica sarà aperta domani, si chiuderanno probabilmente i cancelli, queste frontiere tra un mondo e l'altro. Dico bene? Sto andando fuori tema, mi scusi. Io vado torno subito, continui lei. Passiamo a questo argomento fra un po'. Allora, mi piace come tiene il timone, proprio. Concentriamoci un secondo, il nipote mio, lavoro, è tanto bravo. Grazie, voglio bene. Un bacino. Fai sentire come le va. I momenti d'affetto, che meraviglia. Abbiamo prodotto 700, ben 700 tavolette di cioccolato. All'interno di alcune di queste tavolette ci sarà un golden ticket. La fabbrica sarà allestita al Locomotive Club in via Sebastiano Serlio 25/2 a Bologna. Mm-hmm. Ok, siete tutti invitati a provare a vincere il Golden Ticket domani. È una serata del 2017. Il Golden Ticket è una tradizione della famiglia Wonka, sbaglio? Assolutamente. Dico bene, signora? Perché anche lei mi sa che è una Wonka. Che ha detto? Sì, infatti io l'ho vinto l'anno scorso e sono andata alla fabbrica. Mamma mia, ragazza. La gioia di questa puntata mi lascia completamente conquistata e insediata. Uno scoop dietro l'altro. Ma poi... le campane hanno suonato fuori. Allora, 333-180-94-94, sì. Se vogliamo chiedere alla signora, che non si è ben presentata, però una Wonka, e che cosa ha trovato nella fabbrica, probabilmente, non lo so. Ma la signora sicura... No, ma era domanda... Non se lo ricorda. Bene, allora, ritornando a noi, che mi piace molto come ti mantieni il timone. Non posso svelare quello che può essere vinto con il Golden Ticket. Non posso svelare il premio, però sappiamo perfettamente che già trovare il Golden Ticket di per sé è una cosa. È un ottimo auspicio avvincente. Per l'anno nuovo. Esattamente. Un bellissimo 2017 pieno di brufoli. No. Questo è una delle controindicazioni. No, ma okay. Troverete anche il modo, perché poi, insomma, vabbè, io sto zitta. Ma sto zitta per un poco. Detto questo, la serata ovviamente è aperta anche a chi ama le caramelle, i cornflakes, i Kit Kat, i Mars, le lecca-lecca, non lecca-lecca, c'è lecca, gli M&M's crispy. Il crispy, sì sì, il sundae, hai presente il sundae, quel dolce che vendono al McDonald's? No, il sundae, no, che schifo. No, McDonald's, McCox non lo nominiamo, è assolutamente bandito. No, detto questo, e il Bounty, il Bounty, il Mars, tutta, a me mi piace, ma non sono tutte robe delle Cosmo, cioè anche quelle non sono di corporation, tutto venduto. No, ci vuole, ragazzi, solo la cioccolata, no. Wonka, avete capito? Assolutamente. Un marchio noi indipendente, vabbè, aperti. Dai, cioccolata Wonka. Noi siamo comunque aperti, vogliamo essere inclusivi, essere, okay? Global. E comunque ci sarà solo una cioccolata a testa, non come... Ah, ottimo. Con Augustus Gloop. Chi ha guardato il film si ricorderà che il buon Augustus... Com'è finito il buon Augustus? È finito male, è finito molto male. Ma come, nel preciso? Chi ha guardato il film e lo sa dire? Non ricordi tu. 333-180-94-94. Sì, allora, tanto carino, però che... Non di era Germania, quello grasso? No? Quello grosso. Era quello grasso tedesco, grasso. Esattamente. E che fine ha fatto? Cioè, io lo so che tu lo sai, vediamo se lo sa qualcuno che ascolta. So che questo Augustus, per riuscire a vincere il Golden Ticket, comprò un sacco di cioccolate. 500. E non è valido, non è democratico. Non ce ne frega. No, non va bene. Non sono queste le nostre modalità. Bene. Detto questo, ragazzi, domani sera alle 21.30 inizieremo la nostra serata. La serata andrà avanti fino alle 7. Sarete a tutti gli effetti dentro la fabbrica di cioccolato che avete visto nel film di Mel Stewart, e anche in quello che poi è stato riproposto da Johnny Depp. Perché qui in realtà c'è questa cosa che io oggi ho visto quello del 2005, appunto, con Johnny Depp, mentre la mia mega galattica co-conduttrice coxica si è spontaneamente guardato l'altro del 1971. Dico bene? Sì, ciao, sono Andy W. Joe. È ritornata? Sì, siccome niente, stavo a casa da sola questi giorni, ho portato anche la nonna e me. No, hai fatto benissimo. Ah, non era la nonna Wonka, era, no, nonna, era la mia nonna, la nonna Joe. E lei piace anche a lei fare diversi personaggi. E ha vinto il biglietto d'oro l'anno scorso. L'anno scorso, sì, questo è vero, è tutto vero. Che dolcezza, ragazzi. È vero, perché c'è proprio la commozione della verità nel suo sguardo. Sì, è vero, tutta la cioccolata che si è mangiata, che aveva vinto sua nonna. Ma sì, ma è appena finito il Natale, sai, le feste, si sta in famiglia. Infatti. Sono arrivati tutti i parenti. Ci si vuole più bene. Ci si vuole più bene. Vabbè, ma quello era fino a settimana scorsa. Adesso chi si è visto, Capodanno, vabbè, fan, dai. Adesso no, si beve. E quindi domani alle 9 di sera, quando comincia il coxo, più o meno, cioè nel senso, oggi il coxo, insomma, facciamo una finta. Fingiamo di essere tra 24 ore. Ok. Quindi okay, tu, okay, signor MG Wonka, ti chiamo abbreviato, Miguelito, e ti troverai lì al cancello e lo aprirai davanti a queste frotte di persone impazienti di ascoltare il tuo cioccolato. Dico bene? Esattamente. Come succederà? Cosa vedranno come prima immagine? Vedranno questa casa di legno, arredata, piena di liquirizie, cioccolate, dolci, immagini di sughero. Io dico sughero. Gustose, sughero. Che proprio... Ma se mangiano. Zucchero in italiano, sughero, zucchero, sughero, sughero, sughero. Sughero. Sugaro. Un po' veneto, sugaro già. Lo so, non ho ancora imparato bene l'italiano. Ad ognuna di queste persone le ha dato il cioccolato e poi inizierà questa serata. Ci sarà un menù, ok? Io lo posso leggere questo menù, ma voglio dire, mi sembra che andiamo a svelare troppe cose di quello che succederà. Io vorrei che rimanesse un po' una cosa misteriosa. Io vorrei degli assaggi, vorrei degli assaggi qua e là. Intanto magari per ritornare di nuovo nel climax del gusto, ho questo bellissimo brano dei Primus che si chiama Candyman. Potrebbe essere. Bello, esatto. Bello. Intratteniamo nel Forse frattempo. Forse non tutti sanno che i Primus, la band di Les Claypool, 2 anni fa... quasi 3 anni fa, questione cioè di ore, nel 2014, assieme a Fungi Ensemble, produce questo disco che si chiama Primus and Chocolate Factory. Ma li hai ispirati tutti? Factory. Li hai ispirati tutti, Wonka, tu e la tua famiglia, ma tu di che generazione sei? Cioè nel senso, è sempre lo stesso? Anni 80. E quindi sei la terza generazione wonkica? Sono la terza generazione wonkica. Ci piace. Quella, insomma, quella degli anni 80. E ci è piaciuto anche i Primus. Quella che è piaciuta con Spielberg. Infatti. Il video è gustosissimo. It makes the world taste good. living in a dream. The Candyman. The Candyman. Mi piace tantissimo. Ebbene sì, hanno campionato una mucca. Che c'entra con la cioccolata, no? Perché sarà cioccolata al latte, dico bene. Bravissima, brava. Cioccolata al latte. Salame al cioccolato. A me piace quello con le nocciole. Mi piace molto la cioccolata mia, se devo dire, però sono, non voglio essere troppo ovviamente Willy Wonka, esatto. Michael Wonka, Mike Wonka, Miguelito Wonka, Miguelito. Ma perché in ogni paese è conosciuto con nomi del paese d'origine, sì. Quindi qua in Inghilterra Mike, qua Miguelito, perché Miguelito, noi vogliamo chiamarlo nel suo paese d'origine perché siamo ovviamente alternativi e avanti. Originali. Sì, noi amiamo siamo esterofili per certe esterofilità. Certo. È sempre certo. Stati. E quindi ritornando a noi, vediamo che il gene Wonka ha ispirato attraverso le generazioni fior fior di musicisti. E questo bellissimo brano che mi avete fatto conoscere, che mi è piaciuto molto, ha anche un qualcosa che riverberava insieme a questo muggito di mucca di estremamente cupo, notturno. Sì, c'è qualcosa comunque di creepy. Si dice creepy? Creepy. Qual è la traduzione in italiano? Creepy, un creepy. un po' paurino. Sì. Che poi assomiglia tanto a Crispy, che è come mi piace la cioccolata a me. Sì. Ti piace cioè in tutti i modi la cioccolata bianca, nera, sì. Ah, guarda, è arrivato un altro messaggino di chi, ma chi? Ne sono arrivati un sacco. Che emozione. Allora, ogni cosa in questa stanza è commestibile, persino io lo sono. Oddio. Però quello si chiama cannibalismo, miei cari ragazzi, e infatti è disapprovato in molte società. Citazione da Willy Wonka, proprio da Mati, che ci sta ma sostenendo. Ma chi? Matilde? Mati. Ma da lei? No, una Mati. Non so. Si sa chi. Nell'ambito ok, creepy. Non lei. Sì, infatti, accidenti. Perché c'è questa ambiguità anche nelle restituzioni cinematografiche di cui stiamo sentendo la colonna sonora qui sotto, quella del 71 adesso al momento. C'è questa... aspetta, continuo. Potere al Atei, abbasso il sistema, di nuovo Crippen, e poi agli, ad che sia corretto. Viva i Primus, grazie della scelta. Beh. No, ragazzi, veramente. Stiamo avendo tantissimo sostegno e è meraviglioso. Bene, fate bene. Ce n'è un altro che dice Brexit. Va bene, così. È un nuovo marchio di cioccolata, Brexit. È come dire ciao, Brexit. Ragazzi, il tempo vola. È già giunto il momento delle pubblicità delle 7:30. Assolutamente no. E fra l'altro anticipate dal... Coxo rubrica di Zino, che è una grande novità del Coxo degli ultimi infatti mesi. Infatti io non sapevo di questa novità. Beccati Zino. Dai. Oddio mio, è saltato. Mettolo. Scusami, mettamolo. Intanto la rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Allora, cosa si fa a Capodanno? Sinceramente me ne infischio, ma non per fare il solito snob festaiolo, ma perché non riesco proprio ad entusiasmarmi per cenoni, mortaretti e brindisi di mezzanotte. E poi non vorrei farvi troppe aspettative da deludere, già che ce ne sono state tante. Pensavo di poter diventare il futuro presidente degli Stati Uniti, pensavo di poter finalmente vedere un concerto di George Michael, pensavo di riuscire a passare a Natale ai Caraibi. Insomma, non mi va di caricare anche l'ultimo giorno dell'anno di desideri infrangibili. E poi, se devo dirla tutta, non mi fido del futuro. Non mi fido di qualcosa che non posso controllare. Non mi fido di qualcosa che non posso conoscere. per certi versi ho un po' di compassione verso tutti quelli che ora stanno studiando come apparecchiare la tavola secondo i consigli del forum di Cenone.it, che stanno valutando dove appendere il vischio nei posti giusti di casa, che stanno lucidando il flutto di cristallo per un brindisi da fiaba, perché dopo tutto, tutti aspettano il 2017, e se uscisse il 2016S? Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Zep, quando chiami il call center della tutti i weekend musica live. Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale. Allora adesso stiamo qui su questa stanza perché voglio leggere l'oroscopo che ha scritto una mia amica di Napoli. In questi momenti bisogna lasciare. Ci siamo incontrate a Ischia, che andavamo al mare insieme, io e lei, no? Allora io ho scritto: senti, vado in trasmissione con la mia nipote che fa una trasmissione su Bologna. Allora lei mi ha scritto un oroscopo col Cox, perché in mezzo si chiama Cox sta trasmissione, hai capito? Non ho capito, però andiamo. Allora, la mia amica si chiama Immacolata Salvatore, Ariete, continuerete a sbattere le corna sul Cox come avete sempre fatto, ma solo a gennaio, poi tutto risplenderà come l'oro della carta dorata di Willy Wonka. C'è una Ariete all'ascolto? Nel caso ci fosse 333 180 94 94, per avere approfondimenti, non so. Vabbè, andiamo avanti. Allora, gemelli, non importa cosa pensano gli altri, voi pensate ai coxi vostri. Accidenti. Cancro. No, aspetta. Lo stacchetto c'era. Non ha mai fatto la radio. No, perfetto, signora, va benissimo. Mi scusi. Cancro, basta col sushi. Meglio una dieta semplice a base di pane e coxate. Accidenti, cancro. Pesci, nel corso dell'anno cambierete sesso e vedrete coxi meravigliosi. Questo era spesso. Scorpione, forse. Accidente. Forse. Cavallo, leone. Boh, è uguale, perché ci stanno anche i segni dell'orientali, no? Io sono lo il sapete? Cavallo, io sarei drago. Io sono cavallo, anche la mia amica è cavallo, la mia amica Marta. Allora, per Salvatore. I cavalli mi sembra giusto. Allora ha scritto anche uno col cavallo, che però è uguale a quello del leone. Mangiate molto cioccolato, ma senza ingrassare, grazie al coxo. Ma per tutto il 2017? Tutto il 2017, tutto l'anno. Breve, però dice tutto. Sì, la sintesi. La sintesi. Allora. Nonna. Cosa è successo? Sei commossa? Sono emozionata. Ma perché? Grazie, amiche. È il tuo segno? No, vuoi che t'aiuto? Vergine, okay. Finalmente troverete qualcuno che vi capisce. Andrete a vivere al caldo, dove il coxo splende sempre. Ah, che bello il coxo che splende sempre. Bellissimo, veramente. Sì, quando stavamo in Argentina. Quando ci fa freddo. Ma perché quando avete aperto la filiale in Argentina? Sì, ma la signora, lei è la nonna, sì. di Miguelito o della Andy? No, chi è Andy? No, io Miguelito conosco, okay, è okay. Mio nipote lui. Va bene. Accidenti. Nonna, ti vedo un po' distratta. Allora, ci abbiamo ancora Capricorno, mettete i vostri soldi al sicuro sotto il coxo. Sagittario. Una cowgirl vi salverà la vita portandovi in salvo sul suo cavallo di coxo. Brava la mia amica Immacolata, L'Immacolata gli piace questa immagine della cowgirl. Sì, intanto abbiamo un altro messaggio e penso di sapere da chi viene. credo che sia dal nostro mitico ascoltatore Giffo, nonché Fuga per Art, che dice peggior puntata dell'anno. Ma in complimento o no? Le precedenti erano, i vostri ospiti fanno ma non in altre puntate, insomma lui ha il gusto critico ruspante del vero veneto di montagna. Bravo ragazzi. Sì. Grazie Mario. Di chissà di che segno è, che magari... Ma non ce l'ha scritto? Non ce l'ha scritto, peccato. Comunque... a chi ci ascolta, se indovina i segni che mancano, succederà qualcosa di coccico. Comunque, continuiamo. Dopo il cancro, Scorpione. Fuggi come il coccio, vola come una farfalla. Beh, bello, mi piace, mi piace. Toro. Mi piace anche l'ordine dei segni. Truzzo, hai scritto truzzo. No. Truffo, scarabocchi, umpa lumpa, coccio, unicorni, caramelle. E direi anche questo ci potrebbe stare. Ma soprattutto questo. I'm sick of performing and not getting compliments. Look at me now, washing the dishes, not getting a compliment. Making the dinner without being told it. If I had not did it, I would have been scolded. I am working here like a chef. Where's my compliment, woman? Are you deaf? Give me compliments. Why is my impressiveness written off like as it was of course a ness? This is importantness. Give me answer or compliment. You choose. Give me compliments. I said give me compliments. Give me compliments. I said give me compliments. Cari Andy e cari Miguelito, cioè questa è dedicata alla dolce nonna astrologa, meraviglioso, grazie per averla portata e averla richiusa nella stanzetta dove è venuta. No, sto scherzando. Fare una cosa carina. No, molto, molto. Si era preparata, l'aveva chiesta questa sua amica. Io non ho ancora capito però quali segni mancassero. C'era il cavallo. Non lo so. I gemelli? No, mi sa che c'erano. I pegni. Se vuoi lo chiediamo alla nonna dopo. Magari dopo la puntata. Comunque, ormai dopo quello che è stato detto da Zino sarebbe Gino. Zino con due E. No, Zino, Z-I-N-O. Che sarà ospite di una prossima puntata del Coxo, così lo conosceremo meglio. Zino comunque ha questa visione molto cinica che ormai ha indirizzato la puntata in una direzione specifica. Ah, quindi mi piace leggere questa... l'oroscopo dopo questa cosa ha fatto sì che comunque le cose non funzionassero bene. No. Perché la gente comunque si era abituata a questo tipo di mondo. Beh, però non glielo dia la nonna dopo che ci rimane male. No, infatti. Ma allora concordi con la critica costruttiva di Giffo? Sì, Giffo. Ciao Giffo. Allora vieni tu a fare la puntata, no? Qualche volta ci viene, ecco. Qualche volta ci viene. Sentiamo com'è la sua puntata, vediamo. Non dice cose. Non porta, però è sempre un top of the year, no? Topo? Un top of the year. Va bene. No, ritornando a noi. Abbiamo fatto i complimenti, c'è stata la nonna, la parentesi delle rubriche e tutto ciò che ha fatto del coccio la grande tradizione radiofonica che continuerà ad essere, e ritorniamo a busso a sfruttare, a spremere come un limone il nostro super mega galattico ospite protagonista della 165esima puntata di Coccio Spaziale. Giusto. Cosa volete che sentire? Si è preparato e sta qui e ha scritto tutti i personaggi, quindi facciamo una domanda sul personaggio. Io vorrei che il numero per scrivermi, se volete farmi delle domande proprio dirette sulla mia storia, cosa facevo da giovane, quali sono i miei progetti futuri, se ho voglia di scrivere un libro, la mia biografia, tipo Icardi ha scritto la sua biografia a 20 anni, io lo posso scrivere alla mia veneranda età di 29. Il numero è 33 180, no, 333, scusate, ho dimenticato un 3, 180 184. 180 184 è corto, gli manca un numero. Ripetilo tu, sei tu il capo. Quale? 333 180 94 94? L'avevo segnato male, è scritto lì comunque, eh? E fra l'altro è arrivato un altro messaggio perché Giffo risponde e quindi io non lo leggo perché c'è un limite, la censura, se ci fosse Pasquini la leggerebbe lui, ma io non c'ho cuore, ma di leggere certe cose. Ti aspetto fuori. No, anche perché lui non usa sopra le parole l'eufemistico coxo, va giù diretto e quindi vabbè. Siete tutti dei coxi tranne Fedra, perché io sono veneta, quindi gioco in casa. Vabbè, noi gli vogliamo bene lo stesso. Ma sì, perché poi sarà, secondo me, sarà il primo a quel cancello domani sera, che spesso viene a fare le feste importanti a Bologna. A parte che ci saranno almeno altre 15 feste che cercheranno di copiarci in tutta Italia. A Bologna ce ne saranno altre 3 o 4. Quindi. Davvero? Ma com'è stato? E che comunque ricordiamoci di l'anno del revival. Zino. Cosa dice Zino? Non me lo ricordo più. Non stappiamo le bottiglie. Lo rimetto dopo. Giusto così. Stiamo che non c'è un che coxo. Non ce ne sei. Bravissimo! Bravissimo, come la nonna. No, volevo chiedere invece, ma io vorrei andare alle origini del Wonka, perché e chi sono questo personaggio che è stato ripreso cinematograficamente nella letteratura, insomma, che ha evocato tantissimi immaginari anche musicalmente. Poi abbiamo nominato alcuni personaggi che sicuramente in qualche modo avranno avuto una coerenza con le reali storie della tua famiglia, Miguelito Wonka. Ad esempio questo ragazzo ciccione che è finito, se non sbaglio, affogato nel cioccolato. Lui a chi si riferiva nella realtà, fuori di metafora? Augustus Gloop, esatto. uno stereotipo. Veronica Salt è uno stereotipo, Violette Beauregard è uno stereotipo. Sono personaggi che rappresentano in maniera molto semplice, efficace, l'immagine di un'infanzia facile, viziata, ricca. E, insomma, vabbè, tutti quanti abbiamo visto Willy Wonka, tutti quanti sappiamo di cosa si parla. Ci ricordiamo, no, il vincitore Charlie, che era il ragazzo, l'unico ragazzo povero, educato. Sì, che... e l'unico povero anche, ricordiamo, perché gli altri erano tutti ricchi e bambini un po' viziati, perlomeno. Io che ho visto la versione del 71. Sì, erano tutti ricchi. Erano tutti ricchi, cioè, o perlomeno almeno 3 erano ricchi, l'altro si vede che era molto viziato, non so se era ricco, però tipo che il cowboy che guarda la televisione, guarda tutti i film di western, e quando l'intervistano alla televisione per dirgli complimenti, hai vinto, hai trovato il biglietto d'oro, e lui: ma no, stai zitto, adesso c'è il film, devi aspettare la pubblicità perché ti risponda. E la mamma gli dice all'intervistatore: e sa, il porto tutti i pasti qui davanti alla televisione. e invece, vabbè, poi c'era, io ho visto invece la sua versione in quello del 2005, è diventato un ragazzino super intelligente e geniale a livello di sapere scientifico, che però biasimava chi non fosse alla sua altezza e passava tutto il tempo davanti ai videogiochi di pugni, aveva tutta questa rabbia repressa. Ah, vedi, quello lì si è trasformato così. Il film è stato trasformato. Invece, se poi posso parlare io di un personaggio interessante, io direi di sì. Film. Va bene. Sì, Slugworth, che è quello lì praticamente che cerca di corrompere tutti i bambini che hanno vinto, chiedendogli di portare a lui un campione di succhia succhia che mai si consuma. Questo lecca lecca che tiene in bocca e mai si consuma. E praticamente ogni bambino appena vince si vede lui che arriva e chiede, no, e dice qualcosa all'orecchio. Sì, questi sono i personaggi che non appaiono. Questi non ci nel sono 2005. Nel 2005, però è bellissimo. E domani sera ci saranno. Ah, domani sera, come ho detto prima, non possiamo svelare tutto quanto. C'è un alone di mistero che vogliamo ottenere. L'hai proprio preso la nota giusta. Ragazzi, ho passato anni nelle fattorie del Veneto. Perché Miguelito, prima di fare il cioccolato, faceva i jingle per la radio, non so se lo sapete. Ma no, non lo sapevo. Sì. Dopo ti farò un paio maestro, di coxo. Grande, grandioso, veramente, sono emozionata. Ma volevo chiederle, dottoressa Gio, sì, mi dica, ha mi finito dica, con il suo contributo o c'è qualcosa che ancora deve espletare? perché altrimenti io proverei a mettere un Oompa Loompa dalla colonna sonora di Willy Wonka del 71, così mettiamo per riprendere un po'. Vai. Vado? Rimaniamo sul Siamo tema, sicuri? Tema anni 70. Va bene. Oompa Loompa Loompa Dee-Doo, I've got a perfect puzzle for you. Oompa Loompa Loompa Dee-Dee, if you are wise, you'll listen to me. What do you get when you guzzle down sweets? Eating as much as an elephant eats. What are you at getting terribly fat? What do you think will come of that? I don't like the look of it. Oompa Loompa Doompa Dee Da, if you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too, like the Oompa Loompa Doompa Dee Doo. Ma fra l'altro con questo sapore un po' demoniaco quasi che c'hanno, forse è un po' eccessivo, ma noir, che c'hanno gli Oompa Loompa, arriva un ennesimo messaggio di Giffo che ci dice: dov'è la festa che vengo a darvi fuoco? Per scaldare un pochino per la cioccolata calda. E così, insomma, questo amore continua. Ti aspettiamo con un randello in mano. Dove potrebbe finire, no, tra tutti i bambini che finiscono male in questa fabbrica, dove potrebbe finire Giffo? Giffo? No, secondo me Giffo va a vincere alla fine. Ah, diventa l'erede. Sì, sì, e, sì. E la fabbrica di Willy Wonka diventerà una fabbrica sadomaso, tipo. Fantastico. Secondo me invece sbaglia e mangia uno di quei funghetti allucinogeni in mezzo a tutte quelle cose di cioccolato e parte per un lungo viaggio. Mi piace la tua visione. Piace. No, fra l'altro io sono estremamente soddisfatta perché così tanto pubblico dei messaggi non ce li avevamo dai secoli. Vedi, proprio. Vedi. Allora, quindi il tuo amico Giffo lì non ha ragione. Dato di fatto, Willy Wonka, una storia, una favola facilissima, scatena l'immaginario di personaggi come Marilyn Manson. No. E di altri artisti come Violetta Beauregard, no, forse non tutti conoscono e si ricordano Violetta Beauregard, un'artista di Bologna. Ma ce l'abbiamo? Bisogna andare a pescare, bisogna andare a cercare. Aspetta, su YouTube. Come si chiama Violetta Beauregard? Adesso la cerco perché... Diciamo che Violetta faceva quello che possiamo definire electroclash all'inizio del 2000. Mi sa che gli piacerebbe anche a Crippen. Paragonabile a... qualcosa di simile a Peaches mischiato, però in salsa locale. Guarda, Violetta Beauregard della fabbrica di cioccolato. Hai proprio trovato? È Violetta Beauregard della fabbrica di cioccolato. Ah, Bologna. Di un artista di Bologna. Insomma, artisti che comunque esprimono un immaginario molto lontano dalla favola di cui parla Roald Dahl. Perché? Perché comunque l'immaginario che viene descritto è ovviamente... no? Intenso, malato, come stavamo dicendo, e questa cosa c'è poco da dire, a noi ci piace. Quando vediamo qualcosa che è malato o in un certo qual modo perverso, a noi questa cosa ci piace. Un po' distorto, un po'. Un po' distorto, un po'. Qualcosa che ti soffermi a guardarlo perché c'è quel guizzo di strano che dici: sì, è bello, ma c'è quel che mi sfugge, allora ti fermi a guardare. Un punctum. Quel pizzico di profondità in più. Addirittura profondità. Profondità, perché sennò se siamo sempre tutti contenti, danzanti e felici. E poi sentite qui, sentite l'illuminazione che mi è venuta, che con questo mi sa chiudo il programma, proprio mi cacciano. La cioccolata sciolta, se su una tela, non potrebbe ricordare uno di quei delle masse composte al bacon? Okay. La cioccolata col bacon. Bene, io e te abbiamo chiuso, lasciamo il capo e noi ce ne andiamo. Ce ne andiamo per la radiofonia lì, per sempre. Trash, verso più trash, verso oltre il trash. No. Comunque a questo punto io vi anticipo che per la chiusura di questa puntata, che la puntata peggiore di sempre a detta del nostro esperto Miguelito, Giffo Miguelito è altissimo. e che da domani sarà riascoltabile dal link di Coxo Spaziale su www.coxospaziale.blogspot.com per poterla riascoltare e riascoltare. E ecco, dove troverete anche tutti i link dei nostri ospiti, le cose di cui abbiamo parlato. Ma devo dirvi che io ho una dedica da fare a chiusura di questa puntata. Okay. Come ultima puntata dell'anno del Coxo, ho necessità di dedicare a... Ti stai emozionando. Laura, una goccia di splendore dal passato. Si tratta di Porno Soccorso. Poi me la spieghi sta storia. Di Porno Soccorso. Perché devi dedicare a questa amica di dove? Non si sa. Attenti che Giffo sta scrivendo di nuovo. Lo stiamo proprio tenendo. Giffo, vieni qua se hai il coraggio. No, quindi questa puntata si chiuderà... Ah, dice, dite a Fedra che me la sposo. Ma lo sto leggendo io, Giffo, scusami. Va bene, mi fa sempre piacere. Facciamo quello che dice. Fedra, Giffo ti sposa. Vuoi tu, Fedra, prendere Giffo? No, come? No, Giffo no? Ti sposa, dice, che è diverso. Ah, ok. Più uomo, io, te, don, insomma, sai te quelle lo cose... diciamo noi, Giffo, insieme, 1, 2, 3. Giffo ti sposa. Ne farò un jingle. Che dici, Giffo, ne facciamo un jingle? E poi, vabbè, insomma, detto questo... Potresti sbilanciarti un po' di più, comunque... Vabbè, ne parliamo. No, appunto, stavo dicendo che dedico Porno Soccorso alla Laura, che forse ci sta ascoltando. Ci sta ascoltando, Laura, diccelo. 333 180 94 94. E se non ci sta ascoltando, te mando il link domani, capito? Vabbè, insomma. Comunque, abbiamo pochissimi minuti perché la canzone, questo pezzo miliare delle tette biscottate, che è il mio ex gruppo. Mm-hmm. Tette biscottate. Sì, sì, sì, è proprio. Che bello. Conosci? Potrebbe essere un nuovo dolce da proporre, le tette biscottate. Buono. Con un giro di cioccolata e ma le tette biscottate mi ha sempre saputo di più, un po' più Weight Watchers. Dipende che ci spalmi sopra. Quindi amici, io sono contenta di aver chiuso il 2016 con voi, per aver raggiunto questo alta cima di coxofonia, conclamata dal nostro critico ascoltatore più assiduo, che ha detto che questa era la... di sempre. Di sempre. Grazie Fedra, veramente. Grazie Giffo. Grazie a Michele Giuliani che si è prestato a interpretare come si dice parabolicamente tutti questi personaggi. Miguelito. Ad aver tenuto il timone della trasmissione. Comunque di riuscire, cioè, insomma. Grazie ad Andy Joe, a sua nonna, l'amica astrologa. Grazie, glielo dirò, grazie. E per chiudere l'anno in maniera... Noi brindiamo a questo punto. Dolcissima. Eh? Beh, sì. Facciamo sentire il rumore del brindisi. Cavoli, anche per questo mi chiuderanno il programma. Erano due ma è finta. Beh. Sono bottiglie vuote. A domani, ragazzi, veniamo a chiudere l'anno. Ah, ecco, l'effetto sonoro. E chiudiamo la 165esima puntata di Coxo Spaziale e del 2016 con Porno Soccorso per Laura. Pronto? Porno Soccorso? Pronto? Porno Soccorso? Sì, mi dica. Salve, io chiamo perché avverto un forte, forte dolore. Proprio qui sul petto, dove mi si sono impiantate queste tette biscottate. Mi dispiace, ma io non so come aiutarla. Sono solo la cantante e sì, in questo momento sono occupata. Sì, ma a me mi tolgono e poi mi crescono. Oh mio Dio, ho una tetta! Capisco, deve essere tremendo. Beh, senta, facciamo così. Ci spalmi su un po' di burro e marmellata e vedrà che si sentirà subito meglio. E poi scusi, ma lei deve stare solo contenta, perché adesso è una tetta biscottata. Io? Sì, sì. È proprio io? Proprio lei. Thank you. ristorante e poi lui ha deciso di venire a stare da